already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Diamocela fa. Volevo sapere siamo romani. Beh, scusate, non vogliamo essere dissacranti, ma noi l'audio delle telefonate del presidente Silvio Berlusconi a Barack Obama e a John McCain non ce l'avevamo, non è disponibile, però abbiamo quest'audio a cui siamo calorosamente affezionati, uno dei momenti più alti, più toccanti, più commoventi, più appassionanti del pontificato di Giovanni Paolo II, quando disse damose da fa, insomma, che però equiparato, insomma, fatte per carità tutte le debite differenze, i riporti, i quozienti e quant'altro, insomma, suona un po' come il messaggio che pare che il nostro Presidente del Consiglio abbia consegnato nelle mani di John McCain e di Barack Obama al momento in cui li ha raggiunti telefonicamente al termine della trionfalissima giornata di ieri negli Stati Uniti, credo iscritta a lettere d'oro, insomma, nella carriera di Silvio Berlusconi, con quell'accoglienza, quelle parole, quell'empatia, quella affettuosità, e poi la telefonata a per non sbagliare, a tutti e due, uno dei due sarà presidente degli Stati Uniti d'America, e lui tutto sommato se l'è cavata, insomma, in scioltezza. Questi al momento hanno ben altre cose da fare che stare a sentire gli italiani, e quindi tutto sommato, per l'appunto, Silvio Berlusconi gli ha detto: oh ragazzi, damosela fa. Perché nel frattempo la campagna elettorale americana è arrivata a 21 giorni, 3 settimane precise dalle votazioni, si sta arroventando in vista dell'ultimo dibattito tra McCain e Obama che si terrà domani. Ormai è una campagna a due velocità, a due binari. I due contendenti hanno deciso di giocare le loro ultime carte su piani diversi, restando agganciato al discorso programmatico Barack Obama e invece mettendo in discussione la personalità dell'avversario, i repubblicani, John McCain, soprattutto non John McCain in prima persona, che secondo peraltro comprovate strategie di attacco resta un po' al di sopra, resta un po' al di fuori degli attacchi veri e propri, che vengono invece delegati innanzitutto alla sua numero due Sarah Palin e poi al suo intero staff. E è un momento nel quale, come in un film di Kung Fu, come in un film di Hong Kong, cari ragazzi, volano pugnali. Elettore Mickey Mouse, si alzi, per favore, si presenti alle urne per votare. Topolino si è iscritto alle liste elettorali della Florida. Pare che un certo Mickey Mouse si sia per l'appunto segnato tale nome, tale cognome. Poi è stata sputata la sua iscrizione dal computer che ha fatto puh. Caro Mickey, ripassa un'altra volta a firma della ACORN. Che cos'è la ACORN? La ACORN è la Association of Community Organization for Reform Now, l'associazione delle organizzazioni di assistenza per la riforma ora, subito, ed è un'associazione progressista, democratica, a cui Barack Obama per anni, e questo non va negato perché fa parte della sua biografia, è stato legato a doppio filo a Chicago. Da questo a dire che Barack Obama naturalmente abbia qualche responsabilità nel fatto che questi della ACORN ne stanno facendo più di Carlo in Francia, ce ne corre tantissimo. e sicuramente è una allusione del tutto fuori luogo. Di fatto l'Acorn ne sta facendo di tutti i colori. Quello che è successo in Ohio adesso si sta moltiplicando anche al di fuori di quello stato. Le indagini sono in corso un po' a macchia di leopardo. Questi attivisti sono stati troppo attivi, nel senso che hanno segnato alle liste elettorali un sacco di gente che non esiste, un sacco di gente che è morta, e anche Topolino. Che tutto ciò diventi un'arma in occasione del dibattito di domani, ve lo possiamo garantire. How do you explain what got us into the spot we're in economically and in terms of our foreign policy without walking away from the last eight years policies or coming up with... E questo è Joe Biden, il numero due di Barack Obama, che si prende la briga di andare a Hardball, uno show, un talk show politico molto conosciuto della NBC, a spiegare che cosa sta succedendo secondo lui, a spiegare un po' quello di cui parlavamo all'inizio della puntata, ovvero che dal momento che la presa del discorso economico pronunciato da parte dei repubblicani, John McCain in prima persona, non sta raccogliendo i frutti sperati, ci deve essere per forza uno scarto, un cambiamento di strategia da parte dei repubblicani, che devono concentrarsi sull'attaccare il personaggio Obama, sullo stuzzicare la credibilità, sul forse anche titillare i timori un po' nell'aria, no? Di questo grande passo che consisterebbe in una eventuale elezione di Barack Obama. Joe Biden ha detto però anche di più, ha detto che se McCain continua in questa strada potrebbe anche pentirsene per il resto dei suoi giorni. I just think it's unhealthy. You know, you don't throw race, terrorism, you know, the other guy, who is this man? That's a combustible mix. È un mix infiammabile. Queste sono le parole che ha appena pronunciato Joe Biden, parlando delle strategie, delle tecniche usate in questo momento dai repubblicani. Non puoi continuare a alludere a Obama come a un uomo misterioso, forse pericoloso, forse connesso con chissà chi, arrivare addirittura a sfiorare l'11 settembre senza poi non dover temere di provocare reazioni inconsulte. Giocare in questo modo può essere un gioco pericoloso. Staremo a vedere domani nel dibattito che si terrà a Long Island, alla Hofstra University, l'ultimo dibattito tra John McCain e Barack Obama, se il candidato repubblicano insisterà sulla durezza di questi argomenti o se invece virerà verso questioni più pratiche. Perché nel frattempo entrambi i candidati, sia pure in modo diverso e ancora in modo sommario, probabilmente domani appunto ne saremo di più, ma entrambi i candidati hanno presentato quella che sarà la proposta finale di ciascuno dei due, di ciascuna delle due campagne per la questione economica. Nel piano di cui si fa firmatario Barack Obama, al centro di tutto c'è la classe media, al centro di tutto c'è l'occupazione, il salvataggio della classe media americana. Ne ha accennato in un comizio a Toledo, nell'Ohio, ha presentato le sue nuove proposte per lottare contro la crisi, quattro in particolare: una moratoria di 90 giorni sui pignoramenti delle case, uno sgravio fiscale di $3,000 per le aziende che creino nuovi posti di lavoro, una formula che consenta agli americani di ritirare senza penalità fino al 15% dei propri fondi pensione, la creazione di un fondo federale speciale che finanzi le collettività, le organizzazioni locali, allorché si registri una contrazione delle entrate dalle imposte. Altrettanto ha fatto, anche se in termini un po' più generici, John McCain, che ha affidato alla stampa un comunicato nel quale auspica la sospensione delle regole fiscali che costringano le persone anziane a vendere le loro azioni nel contesto di una crisi finanziaria. Mentre per i risparmiatori il candidato repubblicano si propone di incrementare le deduzioni di imposta per le persone obbligate a vendere in perdita, nonché a ridurre le imposte sui guadagni Ragni del 2009-2010. Come vedete, quando vogliono sanno farlo, sanno parlare di cose serie, di proposte serie che sembrano peraltro non troppo diverse tra loro, come spesso capita quando la campagna elettorale arriva alla sua stretta finale. Domani sera ne sapremo di più, perché domani sera è ora di dibattito. Mentre Regina Spektor e gli Strokes si impegnano in questo crescente molto molto newyorkese, se me la passate, ci sono finiti sulla graticola gli attivisti della Acorn. Fox e CNN rimandano le immagini della commissione degli interrogatori in atto. Temo che questa volta siano stati un po' troppo attivisti, un po' troppo attivi, insomma, e la questione è destinata a montare. Speriamo che non provochi una di quelle terrificanti code per brogli post elettorali, e speriamo l'abbiano presa in tempo. Prima pagina. Dunque, ci sono tre ditte cinesi che hanno chiesto scusa pubblicamente per quello che è lo scandalo degli scandali, almeno di questi tempi in Cina, e cioè lo scandalo del latte contaminato. Lo hanno fatto pubblicamente ieri. Si ritratta della Inner Mongolia Ili Industrial Group, la Mengliu Dairy e la Bright Dairy Group. Tra l'altro, una di queste era pure stata investita nello scandalo da una ritorsione, diciamo così, di Starbucks, che aveva bandito il mese scorso il latte della Mengliu dai suoi banconi. Quindi un grosso danno, non solo d'immagine ma anche economico. A quanto pare la TV di Stato cinese riferisce che dirigenti delle tre ditte hanno promesso ai consumatori che i prezzi dei loro prodotti non aumenteranno, e anche qui ci mancherebbe altro, vista la situazione, nonostante l'incremento dei costi per i controlli di qualità, che naturalmente adesso saranno intensificati almeno finché passerà l'allarme. Nel frattempo, sulla questione del latte si inserisce Taiwan, che afferma in una nota ufficiale che lo scandalo del latte contaminato dimostra in tutta evidenza la necessità per l'isola di far parte dell'ONU. Sapete che c'è questa lunga controversia, da tempo Taiwan chiede la missione delle Nazioni Unite, però la Cina, che è dentro le Nazioni Unite dall'inizio degli anni 70, esercita, come dire, una pressione piuttosto massiccia, e quindi ci sono un centinaio di veti che impediscono a Taiwan di entrare insieme alla Cina nell'ONU, e a quanto pare, insomma, dicono dirigenti di Taiwan, se fossimo stati anche noi membri dell'ONU avremmo potuto bloccare le importazioni di latte in tempo e non avremmo avuto tanti problemi. Oh, una volta tanto che un articolo sui VIP, che in questo momento appaiono nei notiziari americani, soprattutto allorché decidono di concedere al pubblico mondiale, plaudente, anche un po' adorante, l'ascolto della loro preferenza elettorale, che naturalmente si iscrive poi al grandiosissimo cartello del, insomma, chi se ne frega, tutto sommato. Per esempio, oggi tocca a Dennis Hopper, pensate un po', Dennis Hopper, Easy Rider, quello, il Capitano America, no, l'altro, l'amico di Capitano America, che ci fa sapere che lui, repubblicano di ferro, questa volta voterà per Barack Obama, e il mondo resta, come dire, impietrito di fronte alla notizia. Se è un segno, e se segno, oppure non vale niente, e se segno, che segno, ma non importa. E invece no, ci piace di più la notizia che riguarda Brad Pitt, che se non altro si è dato da fare in modo un po' più pratico che darci delle preferenze elettorali. Dopo Katrina, dopo l'uragano che ha devastato New Orleans, ha messo in piedi una associazione che si chiama Make It Right, fallo bene, che aveva degli scopi molto pratici, raccogliere fondi e ricostruire case. E ieri una parte delle 150 case la cui costruzione è pianificata nel nono distretto di New Orleans sono state aperte e offerte ad alcuni cittadini, e con una grande festa, molta commozione e, naturalmente, trattandosi di New Orleans, tanta musica. E tra l'altro si è notato piacevolmente che le case sono anche molto moderne, hanno pannelli solari, varie tecnologie di risparmio energetico, sono eco amiche del mondo, della terra. Insomma, una nonna di New Orleans, entrando nella casa, ha detto la cosa più semplice e toccante: io ringrazio il Dio che ci sia Brad Pitt. L'ha detto per un buon motivo, questa volta, mi sembra non giusto. Per i soliti motivi. Mi sembra giusto. Allora, torniamo in Cina con Beniamino Natale, amico di Jefferson Ming, ma soprattutto corrispondente dell'ANSA, che oggi scrive una bella storia che dimostra come, non so Stefano se sia l'influenza delle Olimpiadi o comunque di tutto un movimento di sviluppo che in Cina sta avvenendo da diversi anni, ma sta nascendo in Cina una vera e propria coscienza civica, una coscienza di popolo per le questioni anche ambientali. Mm-hmm. Per esempio, Beniamino Natale ci racconta quello che sta succedendo in questi giorni a Taizhou, che è una città non lontana da Shanghai, dove una buona parte della popolazione si sta mobilitando contro la costruzione di un impianto chimico nel quale dovrebbe essere prodotto il paraxilene, che è una sostanza chimica tossica largamente usata nella produzione di vernici, solventi e plastica, un po' come la melamina, forse ancora più pericolosa in realtà. A quanto pare in città è partita una catena di Sant'Antonio con messaggi su internet e sui cellulari che incitano la popolazione ad opporsi alla costruzione dell'impianto. In qualche modo hanno preso l'esempio da Shanghai, che fece una protesta simile per il treno a levitazione magnetica, quello super veloce, e poi di un'altra città, di Xiamen, dove lì venne bloccata proprio grazie alla protesta popolare la costruzione di una fabbrica chimica. Per il momento il governo non sembra disposto a seguire l'esempio di Shanghai e di Xiamen e insiste nel promuovere il progetto, che costa 6 miliardi di euro. Vi annuncio che tra pochi minuti la ripresa del programma dopo le notizie della borsa. Avremo in studio un ospite graditissimo, Federico Rampini, tra l'altro un amico del programma, ci parlerà il suo libro, parleremo insieme naturalmente. Prima volta in carne ed ossa qui. Però finalmente in carne ed ossa e capelli. E vi do un'ultima notizia, arriva da Hillary Clinton, protagonista di un notevole exploit elettorale non più tardi di 24 ore fa a Scranton, da dove viene Joe Biden, e anche lei pare abbia radici. Dopo, insomma, questa apparizione molto energetica a sostegno di Barack Obama, le hanno chiesto, dice, nel caso però Barack perdesse, scusi, lei è pronta a ricorrere, a ricandidarsi nel 2012? Lei ha risposto che su una scala da 1 a 10 la possibilità che l'America la veda di nuovo candidata alla presidenza sono probabilmente 0. Slow down. I'm about to go and find somewhere.